La vecchia rete giù dal mulino, la vecchia rete giù dal mulino, aiuta Catarina e mamma non c'è per me te, aiuta Catarina, piscanza lata, pizzica la pizzica. Ara venuta te, lo sai mulino, ara venuta te, lo sai mulino, trova la figlia tutta, ma non c'è per me te, trova la figlia tutta, ripilata, pizzica la pizzica. Chi tieni figlia mia, che ti ripili, chi tieni figlia mia, che ti ripili, e la gallinella mia, la non c'è per me te, la gallinella mia, la nupiata, pizzica la pizzica. La vecchia, no, chi c'è passata di Sabinella, sull'ulu mulinare, ma non c'è per me te, sull'ulu mulinare, c'è passato, pizzica la pizzica. La vecchia rete giù dal mulino, la vecchia rete giù dal mulino, che vuoi la gallinetta? Voglio una gallinetta, ma non c'è per me te, voglio una gallinetta, mia patata, pizzica la pizzica. Ti dugno 31 minuti di grano, ti dugno 31 minuti di grano, e nanno franco de la mangia per me te, nanno franco de l'umaginato, pizzica la pizzica. Non voglio grano né immaginato, non voglio grano né l'umaginato, che vuoi la gallinella, mamma non c'è per me te, che vuoi la gallinella, mia patata, pizzica la pizzica. Chi rovi chi faccia la gallina, chi rovi chi faccia chi la gallina, per il mio carne, mamma non c'è per me te, per il mio carne di grastato, pizzica la pizzica. Noi giorno mi morì na gallinino, noi giorno mi morì nu puricino, e ci fici 500, mamma non c'è per me te, ci fici 500 su pressato, pizzica la pizzica. Lu figo tu mannava la regina, lu figo tu mannava la regina, e lu preso te da lua, mamma non c'è per me te, lu preso te da lua, ma sto giurato, pizzica la pizzica.